Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biachesi in conduzione e in redazione, qui con me Katia Caramelli, e torniamo ancora nuovamente a parlarvi del futuro della Chiesa dopo le dimissioni del Papa. Queste inaspettate annunciate dimissioni di Benedetto XVI dal pontificato il prossimo 28 di febbraio. E noi abbiamo pensato di realizzare una puntata sui movimenti dei cattolici, perché in queste ore si stanno interrogando sul futuro della Chiesa e soprattutto discutono giustamente su quale personaggio potrà prendere le redini di milioni di fedeli. Si parla, ma alcuni giornali ne parlano, con insistenza dell'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, che è un personaggio che sta dividendo i teologi e i movimenti di cattolici organizzati. Naturalmente non c'è solo il suo nome in pista. Vi chiediamo al 349-238-6666 di intervenire appunto sul nome del nuovo Papa, una figura che vi sentite, in cui vi sentite più rappresentati di quelli che almeno conoscete. 349-238-6666. Non c'è soltanto naturalmente Scola in campo, chi sono gli altri cardinali? Allora Daniele, bisogna vedere quale filone prevarrà. Se prevarrà quello che sostiene la candidatura italiana, sicuramente Angelo Scola è il favorito. Se invece si vorrà guardare all'Europa ma non all'Italia, il favorito, almeno in questi giorni, è un fedelissimo di Ratzinger, l'arcivescovo di Vienna, Schönborn. Se invece si deciderà di guardare fuori dai confini europei e in particolare all'America Latina, si fanno i nomi di Bergoglio e di Maradiaga, o ancora all'Africa, e in questo caso in polpo position ci sarebbe il cardinale Turkson, anche se i nomi si fanno, ma poi non sempre le previsioni ci prendono. È stato così con Ratzinger, non è stato così ad esempio con Wojtyła, che era assolutamente un outsider, nessuno l'aveva prevista l'elezione del Papa polacco. Tuttavia i movimenti cattolici si interrogano, come dicevi tu, in queste ore, anche perché sono attraversati un po' da un sentimento quasi di sconcerto. Sono un po' destabilizzati dal fatto che un Papa abbia scelto di dimettersi, e quindi siamo andati un po' a sentire dei pareri, cominciando però da quello autorevole di un teologo quale Vito Mancuso, proprio sul futuro della Chiesa. Io penso che il problema non sia tanto di tipo geografico, scegliere un Papa africano, sudamericano piuttosto che europeo. Ci sono esponenti della Chiesa africana che sono più conservatori. La partita del prossimo conclave, a mio avviso, si dovrà decidere sulla questione del rapporto tra la Chiesa cattolica attuale e il Vaticano II. Non è un caso probabilmente che questo conclave si celebrerà a 50 anni dal Vaticano II. Cosa ne facciamo di questa apertura della Chiesa cattolica al mondo contemporaneo? È questa la grande questione, che finora i papi non hanno affrontato in modo netto, rigoroso e conseguente. Il conclave, a mio avviso, si dovrà esattamente decidere sulla base di questo. Meno conterà il discorso geografico, secondo me, che può in prima battuta per il grande pubblico suscitare degli effetti, ma si tratterà di guardare molto al di là della prima battuta, andare in profondità e andare a cogliere quel problema di fondo, che è il rapporto della Chiesa con la coscienza contemporanea. Tra i nomi italiani si fa quello dell'arcivescovo di Milano, Angelo Scola. Potrebbe questa figura interpretare quello che ha appena detto? Ma così come stanno le cose attualmente direi di no. Direi che Scola non è in questa direzione, in questa apertura, per quanto il carisma papale poi è anche in grado di trasformare le persone. Nessuno pensava che Giovanni XXIII, Papa Giovanni, facesse quell'apertura straordinaria che è stato il Vaticano II. Quindi cominciano ad arrivare i vostri sms al 349-238-6666. Chi ci chiede se il vecchio Papa ha diritto di voto? No, il vecchio Papa non ha innanzitutto diritto di voto, perché andrà per gli 86 anni e votano solo i cardinali che hanno meno di 80 anni, infatti sono solo 117 rispetto a un collegio cardinalizio più ampio. E poi sicuramente, avesse avuto anche meno di 80 anni, conoscendo Benedetto XVI, si sarebbe astenuto. Ecco, Guido da Bergamo ci chiede se il Papa, dal punto di vista teologico, non dovrebbe essere un incarico a vita, indipendentemente dalla salute. Allora, il codice di diritto canonico all'articolo 332 prevede l'ipotesi più che di dimissione di rinuncia e quindi era comunque un'ipotesi prevista. Corrado da Como dice: ci siamo resi tutti conto che anche il Papa è solo un uomo, non serve sorprendersi. Credo ci vorrebbe un Papa nero, il Papa africano che hai indicato a buone sì, chance. Turkson è uno dei papabili, diciamo anche che io però sono d'accordo con Vito Mancuso laddove dice non è tanto un problema di area geografica perché ci potrebbe anche essere un candidato papa nero più conservatore magari di un latinoamericano o di un italiano, non è tanto una questione di appartenenza geografica. Allora riprendiamo un po' il filo del ragionamento, abbiamo sentito Vito Mancuso e tu sei andata avanti a sentire soprattutto le associazioni dei movimenti cattolici. Sì, ho sentito innanzitutto le ACLI con il presidente Giovanni Bottalico per sentire appunto cosa si aspettano dal futuro conclave e che cosa ne pensano di questa candidatura di Scola. Bisogna guardare al mondo che è cambiato lo diciamo per la politica ma è cambiato anche per la Chiesa, un mondo che è stato sconvolto e che ha bisogno di ritrovare alcune radici. Uscire una crisi come quella, una crisi mondiale che sta penalizzando non soltanto il nostro paese, ma tutto il paese del mondo, credo che abbia necessità di essere riscritto con alcune regole. Ecco, una chiesa di popolo, una chiesa come la Chiesa cattolica in questo momento ha questo grande compito, innanzitutto di dare speranza. È possibile che la scelta si concentri sul candidato italiano e più precisamente sull'arcivescovo di Milano Scola? Guardi, lo Spirito Santo, qui io sono molto credente, farà sicuramente la sua parte. Credo che possa esserci uno spazio, un giusto spazio per un Papa italiano, in questo caso il Cardinal Scola è un uomo di chiesa di grande elevatura intellettuale, di grande capacità e quindi credo che possa essere un tesoro prezioso per la chiesa in questa fase. Ecco, c'è un ascoltatore che dice di intervistare Mancuso come teologo valeva sentire l'opinione di Belzebù, un ascoltatore, vabbè questo sono naturalmente ricordiamo opinioni. Che è un grande teologo Vito Mancuso, allievo di Martini, il cardinale Martini quindi. Allora, c'è chi chiede un Papa sudamericano fa spostare l'attenzione verso quella zona della terra che un nostro ascoltatore ritiene Fonte Nuova di XIV e di vita sociale. Diciamo che un ascoltatore mi chiede che cosa penso. Io penso che il nuovo Papa, se fosse stato per me, è una persona che purtroppo non c'è più. E quindi resto, diciamo, che era il cardinale Martini. Le altre figure sono figure sicuramente importanti, molto importanti, ma quella era la figura che più era vicina al mio cuore e alla mia idea. Allora noi abbiamo ancora un'altra associazione che è quella più importante. Certo, Azione Cattolica con il suo presidente Franco Miano, sentiamo cosa ci ha detto. La sorpresa si stempera nell'attesa, diciamo, no? Nell'attesa di questo tempo nuovo che si apre inevitabilmente, anche nella gratitudine per questo Papa che ci ha accompagnati, accolti, che tra l'altro ha sempre accolto in modo particolare l'Azione Cattolica, bambini, giovani, adulti. Qualcuno a Milano però ha evidenziato un rischio che ci potrebbe essere, quello che il mondo cattolico, comunque una parte dei fedeli, possa vivere questo con smarrimento, cioè possa vedere una desacralizzazione della figura del Papa. Questo rischio sicuramente esiste. Anche se io credo che rappresenti un impegno per tutti noi, per tutti i credenti, a far cogliere i livelli più profondi attraverso cui la fede esprime la sua relazione con Dio, diciamo, attraverso Gesù Cristo nel caso dei credenti, no? Perché Alessandra Schepisi invece l'abbiamo inviata ormai da ieri in Piazza San Pietro e abbiamo chiesto un po' anche oggi qual è l'umore dei fedeli in Vaticano. È una tristezza molto grande per tutta la gente, principalmente per i cattolici di tutto il mondo, però questo fatto hace il pontefice di Giovanni Paolo II molto più forte. In questo momento, prendendo una decisione così importante, lo ha reso molto più umano. Che Papa spera che possa arrivare? Un Papa che sia più vicino alla gente, no. Ne abbiamo tutti un po' più bisogno. Lui era il Papa della ragione, un teologo, però l'ho visto poco vicino alla gente. Quale potrebbe essere un successore? Mi permetto di dire che potrebbe essere l'occasione per la Chiesa di aprirsi di più. Secondo me, io parlo proprio da giovane, mi permetto. Oggi la Chiesa vive un grande pericolo, una situazione molto problematica, perché i giovani stanno progressivamente allontanando. Questa potrebbe essere una nuova opportunità per aprirsi e per riuscire anche a ritrovare un dialogo con i giovani che secondo me un po' si è perduto. Bene, grazie, avete sentito anche le voci raccolte da Alessandra Schepisi. Tutti i giorni Italia incontro Russia, a quest'ora il termometro del tema, del punto del giorno. Come sempre in studio Daniele Biachesi che vi saluta in compagnia della redazione di Radio 24, oggi in particolare come ieri di Katia Caramelli.